Baldone, un programma in italiano non solo per italiani, in onda tutti i venerdì su Radio Contrabanda a Barcellona. Buon pomeriggio, ben ritrovati, bentornati qui a Radio Contrabanda per una nuova puntata di Zibaldone, una puntata tutta dedicata alla musica. Fiaccole nel bivacco di zingari, suon di nacchere canzoni, occhi ardenti di passione, agile morbida, una zingara turbina e demonio tentatore, o la dea dell'amore. Zingara splendida, zingara angelo, idolo, demone, sa la tua bocca cos'è la seduzione? Tu sei la gioia, il mistero, la tentazione. Zingara, venere, nomade, fiamme brucianti d'amor son gli occhi tuoi. Turbine, febbre, passione, tormento d'amor, selvaggio fior sei tu. Zingara, venere, nomade, fiamme brucianti d'amor son gli occhi tuoi. Turbine, febbre, passione, tormento d'amor, selvaggio fior sei tu. Mito vivente d'amor sei tu. Un brano del 1955, insomma, è passato un po' di tempo, questa zingara di Catina Ranieri Banzo, perché anche quest'anno, terza edizione, torna a grande richiesta il nostro monografico speciale sui respinti all'Ariston, ossia le canzoni che sono state respinte dal Festival di Sanremo. Buon pomeriggio e bentornato innanzitutto, Banzo. Buon pomeriggio Steven, buon pomeriggio a tutti. Si torna respinti all'Ariston con la terza edizione e come al solito in posizione strategica, cioè giusto prima che l'Italia tutta cominci a parlare del festival attraverso furiose discussioni sui social, noi vogliamo ricordare chi non ce l'ha fatta, che poi al di là di questo incipit retorico poi magari ce l'ha fatta in altre occasioni e magari anche meglio. Spesso la carriera di un cantante è fatta di brani scartati ed ammessi. Vedremo in vari casi che hanno comunque partecipato a Sanremo gli artisti che presenteremo, ma non nello specifico i brani che comporranno questa scaletta, come è già successo nelle due precedenti edizioni di questo format. E le esclusioni possono avere le ragioni più varie, che analizzeremo caso per caso ovviamente, e passerei subito a presentare il primo brano. Ecco, come hai detto tu, non è non è quella, brano dell'altro ieri, e non è, ha quasi 70 anni. Ma poi non è la zingara che tutti conosciamo, che vinse a Sanremo proprio nel 69, Bobby Solo e i Vazzaninchi. Questa è una zingara di 14 anni prima, ecco, che ha a che fare proprio con i primissimi anni del festival. Sì, sì, beh, certo, penso che chi ha ascoltato la canzone si sia reso conto che non era la stessa, c'è un'omonimia, perché alla fine i titoli che girano sono quelli, e in questo caso comunque è interessante la storia, perché ci parla di un mondo in cui non esisteva ancora il monopolio sanremese, che per noi è qualcosa di inconcepibile, perché il festival era nato nel 51, ma immediatamente, visto che stava riscuotendo un buon riscontro, nacquero diciamo manifestazioni affini nello spirito che proponevano i brani scartati. L'idea era di riuscire a presentarli in tempo alle varie orchestre per i veglioni di carnevale, che erano un po' il business del momento, visto che all'epoca il mercato discografico non era ancora entrato nel suo massimo splendore. Quindi questa zingara non viene ammessa a Sanremo, Catina Ranieri ci aveva già partecipato nel 53-54, non ce la farà più, ma a Velletri, al Festival di Velletri, riesce ad arrivare seconda, anche se poi l'inviato all'epoca della stampa dice che era un tangone modesto e senza grandi voli. Tangone modesto comunque arrangiato da un nome non di seconda fila, Rizzo Ortolani, insomma, compositore di colonne sonore, che, beh, insomma, c'è una spiegazione familiare, perché era marito di Catina Ranieri. Catina Ranieri che comunque non ha avuto una carriera di poco conto fino alla sua scomparsa nel 2018, perché poi ottenne negli anni 50 il successo negli Stati Uniti, in America Latina, tramite lunghe tournée, e collaborò a più riprese con Nino Rota alle colonne sonore dei film di Fellini. Quindi, insomma, una carriera comunque piena di soddisfazioni, anche se questo brano a Sanremo poi non c'è arrivato, è arrivato a Velletri che nessuno ricorda più. Sì, noi andiamo avanti 10 anni, al 1965, con questa Ascoltami di Luisella. Ascoltami, tu che puoi sentir la voce mia dal cielo, aiutami, l'unico mio amore se ne va da me, io dedico il mio dolore a te, che torni da me. Ascoltami, se restassi sola morirei, lo sai, aiutami. She's Beh, il 65 è un anno importante, ne parlavamo già in altre occasioni, ti cedo la parola a Faust, ti do anche il bentornato e un buon pomeriggio a te che ci accompagna anche in questo terzo speciale di Respinti all'Ariston. Buon pomeriggio Steven, buon pomeriggio a tutti. Sì, hai ragione, perché ne abbiamo già parlato nei due precedenti volumi. Nel 65 la RCA di Roma, quindi una delle più grandi, la più grande casa discografica del tempo, cerca di monopolizzare il festival presentando 6 brani, cercando di portarli tutti in gara. Ovviamente gli fanno notare che sono un po' troppi, e loro per protesta, visto che Edoardo Vianello, che era considerato un possibile anche vincitore, viene lasciato a casa, ritirano tutti quanti gli altri brani. E in questo caso appunto è il caso di Ascoltami, che è il brano di Luisella, appunto l'anagrafe Maria Luisa Catricalà, che avrebbe dovuto presentare in abbinamento a Dalida, quindi comunque un grosso abbinamento. I nomi coinvolti sono forti, perché l'arrangiamento, l'avrete notato, è di Morricone, insomma c'è la sua firma inconfondibile, poi era veramente ai suoi massimi in quegli anni. E invece in questo caso le parole sono di Carlo Rossi, non è il Carlo Alberto Rossi che ha scritto per Mina Mille bolle blu, ma è il Carlo Rossi che scriveva su Cucuzzo dalla montagna o Abbronzatissima per Vianello, quindi però quasi omonimi, e che tra l'altro sposerà pochi mesi dopo Luisella, che quindi non andrà mai a Sanremo, e invece nel caso di Dalida, come ben sappiamo, ci riuscirà 2 anni dopo, per la tragica edizione che vedrà la morte di Luigi Tenco e segnerà anche la vita di Dalida. Noi rimaniamo al 65 con un altro brano, sempre escluso perché diciamo del blocco RCA, e di un altro cantautore che ebbe poi interprete successo negli anni successivi. Parliamo di Riccardo Del Turco. Parla di te, di quello che vuoi, ma parla di te. Ogni tua parola per me, tu lo sai, è qualcosa, anche se non vuol dir niente. Parla di te, di quello che fai, e se pensi un po' a me, dimmi se ora che siamo tanto, tanto lontani, sei ancora un po' matta per me. Di quel che vuoi, anche se ti sembra non voglia dir niente. Quel che dirai mi farà sentire un po' più vicino, vicino a te. Parla di te, di quello che vuoi, ma parla di te. Ogni tua parola per me, tu lo sai, è qualcosa, anche se non vuol dir niente. Parla di te, di quello che vuoi, ma parla di te. Ogni tua parola per me, tu lo sai, è qualcosa, anche se non vuol dir niente. Lo dicevamo anche in questo caso per Parla di te di Riccardo Del Turco, un altro dei brani esclusi per la scelta della RCA dal Festival di Sanremo 1965. E anche in questo caso, Fausto, parliamo di una bella produzione. Prima nominavamo Morricone, anche qui ci sono dei nomi importanti a fianco di Del Turco. Sì, praticamente vediamo quant'era la forza produttiva dell'RCA in quel periodo. Nella stessa edizione abbiamo Morricone, avevamo Trovajoli nell'edizione di due, nella puntata di Le Spinte all'Aristo di due anni fa, quindi nomi grossissimi. E qui c'è Bacalov, Luis Bacalov, che all'epoca appunto era arrangiatore all'RCA, i cori dei 4x4, famosissimi, celeberi, il 4x4 di Nora Orlandi, che fra l'altro è venuta mancare poche settimane fa, e un sax che è in primissimo piano e che secondo me è suonato da Gatto Barbieri, che comunque all'epoca era tornista dell'RCA e per dire fa l'assolo di Sapore di Sale. Quindi. E abbiamo un testo modernissimo, se lo confrontiamo anche solo con Ascoltami, il brano di prima, con tutto il rispetto per Carlo Rossi, però quella era una preghiera della donna innamorata che, no, e chiedeva al Signore di fare tornare l'amato, certo, di recuperare il suo amore. Qui siamo invece su un rapporto uomo-donna totalmente diverso e si vede anche che fra gli autori del testo c'era Gino Paoli e quindi c'è una sensibilità che ha la nuova canzone d'autore che i parolieri classici non avevano, ecco. E Del Turco, tra l'altro, diciamo, insomma, ebbe successo anche lui, no? Il disco Per l'estate vinse con Luglio 3 anni dopo, partecipò in 3 occasioni al festival, anche se 2 già più tardi, all'inizio degli anni 80, no? E poi insomma i revival con i Super 4 che avevano messo insieme vari interpreti e cantautori, cantanti degli anni 60, no? 20 anni dopo, come in quel caso appunto Del Turco, Jimmy Fontana, Nico Fidenco, Gianni Meccia. Andiamo avanti, andiamo negli anni 70, arriviamo al 1976 con la voce inconfondibile di Mia Martini. Aprimi concilio, aprimi come una finestra al sole, disegna le tue idee con le dita sulla mia pelle, come ad una lampada a pezzi, ridammi il chiarore, ricostruiscimi con le tue mani, lascia impazzire nella mia mente perdute emozioni. Carezza con lo sguardo, nuove colline, fammi arrossire con le parole più strane d'amore, ferma quell'orologio che batte nella mia fronte. A tutti i miei vestiti vecchi, fammi bella senza nubi, come un cielo di gabbiani, ricostruiscimi con le tue mani, lascia cadere nel caffè del mattino nuovi domani. La mia è il tuo nome, parlar d'amore oggi mi sembra banale, eppure ferma quell'orologio Beh, ma al di là di dire, Banzo, che questo brano probabilmente, se si fosse, fosse stato presentato a Sanremo, avrebbe potuto vincere nel 76, ma qui anche la cosa particolare è il perché, insomma, sia stato un respinto all'Ariston questo brano, perché è una storia un po' diversa dagli altri. Beh, sì, sulla storia del brano effettivamente, come dicevo all'inizio, ogni brano ha la sua storia, a volte si ripetono. In questo caso il motivo per cui l'amore del mio Rizzotto non partecipò a Sanremo fu sostanzialmente una faida fra Mia Martini e la Ricordi, all'epoca la sua casa discografica. La Ricordi la voleva mandare a Sanremo, Mia Martini però era già ai ferri corti con loro per via della loro ingerenza in occasione del precedente album, che aveva limitato di fatto le sue scelte artistiche. Quindi alla fine la situazione raggiunge un punto di rottura, Mia Martini abbandona, rescinde il contratto e la canzone praticamente viene in questo modo automaticamente cassata. Uscirà poi in singolo poche copie con zero promozione, lato B si intitola Sabato, e sì, non so se avrebbe potuto vincere, ma è una canzone che sicuramente passa sotto traccia, firmata, non l'ho detto, da Nini Carucci e Daiano. È un arrangiamento molto anni 70, proprio un brano di quel periodo, un brano bello di quel periodo, ma si sente veramente che siamo negli anni 70 per tante caratteristiche di arrangiamento. E comunque questa è la primissima versione del brano che è rimasta inedita fino al 2006, non quella del singolo che stavo menzionando prima. Chiudo ricordando quello che dicevo prima, appunto, che i respinti all'Ariston sono solo i brani, non i cantanti, perché certo, ovvio, analizzando nella memoria si trovano alcune occasioni in cui Mia Martini ha partecipato, più di una, spesso vincendo premi della critica, però è un rapporto spesso con degli alti e bassi, ecco. Sì, sì, e noi rimaniamo negli anni 70, il festival che cercava, no, di riprendersi dopo gli anni più bui, e c'era Salvetti, no, al comando, per così dire. 1977, i Crisma con Lola. Ma Manzo, io non so quanti ricordino i Crisma, no? Un duo formato da Maurizio Arcieri e Cristina Moser, ma questo brano tra l'altro è rifiutato al Festival del 78, no? La gestione, dicevo già prima, di Vittorio Salvetti, anche la particolarità che è cantato in inglese. Effettivamente so che può sembrare strano, ma non stavamo parlando di Sanremo, però c'è una motivazione che è semplicemente che Salvetti aveva contattato i Crisma proponendo loro di partecipare e quindi di reincidere questo brano, che all'epoca non era ancora stato pubblicato ovviamente, in italiano, magari con un testo anche più, non so, commerciale, più accondiscendente. Quindi Salvetti aveva già conosciuto la canzone, l'aveva apprezzata e aveva cercato di adattarla a un contesto sanremese, appunto con il testo in italiano. E come abbiamo detto, questi erano gli anni un po' più bui o di immediata ripresa del festival dopo l'edizione del 75, che fu forse l'encefalogramma quasi piatto del festival, che vinse quell'edizione, la vinse Gilda con Ragazza del Sud, per chi ricorda questo brano. Credo di averlo detto anche in edizioni passate, perché è un mio piccolo trauma. Sì. Comunque, appunto, diciamo, Lola, che è un pezzone, una specie di synth tango con delle atmosfere un po' pulp, che c'entrano pochissimo con quello che associamo di solito a Sanremo, sarebbe stato un bel rinnovamento. Comunque, alla fine, non se ne fece nulla, perché i Crisma, quindi Maurizio Arcieri, era quello di 5 minuti e poi, se vuol dire che giri fanno a volte gli artisti, rifiutano di adattare il brano in italiano e lo propongono a fine 77, un mese prima del festival del 78, e stavano lavorando all'epoca al disco Chinese Restaurant, che è un po' un classico. Comunque anche l'evoluzione stilistica degli stessi Crisma è notevole, perché avevano esordito come disco music e qui insomma si sente che le atmosfere sono completamente diverse. Sì, tra l'altro questo disco Chinese Restaurant fu poi prodotto tra Milano e Londra con il fratello di Vangelis, Nico Patanassiou. Andiamo avanti, andiamo all'inizio degli anni 80, dove troviamo un'altra cosa molto particolare. Si intitola Ma perché? Loro sono Rick e Gian. Non toccare, ma perché? Perché papà non è il re. Non guardare, ma perché? Perché il latte non è te. Non sentire, ma perché? Perché dopo ti impressioni. Non parlare, ma perché? Perché il nonno si è incastrato. Non mangiare, ma perché? Perché ho pronto il carro armato. Non pensare, ma perché? Sono in tanti come te. E quando piove sul selciato, vieni via tutto bagnato di caffè. Ma che bello inventarsi perché la ricetta adesso c'è. Un perché due volte al giorno, leva al medico intorno. Ehi, inventiamoci tutto perché. Inventiamoli perché. Si sta bene come un re. Adesso scendi e dimmi quando tocca a me. Ma perché? Perché io ho cinque dita, guardo io. Ma perché? Perché dopo ti racconto, sento io. Ma perché? Perché tu hai già un lavoro, penso io. Ma perché? Perché tu non hai sentito, finco io. Ma perché? Son d'accordo con tuo zio, canto io. Ma perché? Siamo in pochi come me. E se tu cerchi di capire, va a finire che poi dai ragione a me. Ma che bello inventarsi perché la ricetta adesso c'è. Un perché due volte al giorno, leva al medico di torno. Ehi, inventiamoci tutti un perché. Inventiamoli perché. Si sta bene come un re. Ma adesso scendi e dimmi quando tocca a me. Ma che bello inventarsi perché la ricetta adesso c'è. Un perché due volte al giorno. Vabbè, insomma, un bel volo pindarico tra il Crisma e questo brano di Rick e Gian, che tra l'altro ha Fausto una storia particolare, perché anche qui ci sono dietro, insomma, tra produzione, chi scrive i brani, altri nomi interessanti, oltre al duo comico che ebbe tanto successo negli anni 70 di Rick e Gian, ossia Riccardo Minigio e Gian Fabio Bosco, insomma, i loro veri nomi. Sì, esatto, loro avevano provato ad andare a Sanremo per finta qualche anno prima, avevano pubblicato questo bizzarro disco Come andammo a Sanremo, in cui facevano la parodia dei generi musicali all'epoca più in voga. Invece qui siamo nell'81, cercano veramente di andare a festival perché i Rai non li chiamavano più, erano costretti a lavorare nelle TV locali, soprattutto in Lombardia c'erano, era il momento dell'esplosione, no? Delle cosiddette TV libere, che poi saranno tutte assorbite o comunque fatte fuori da Berlusconi nel giro di 2 o 3 anni. All'epoca, in questa TV locali, incontrano un giovane comico emergente, un tale Francesco Salvi, non so se l'hai sentito nominare, ovviamente lo conosciamo tutti. Tra l'altro lui a Sanremo ci andrà veramente, perché poi ci andrà almeno 4 volte in gara, però all'epoca scrive le sue prime canzoni, le propone appunto a Rick e Gian, e il disco lo produce un tale Roberto Danè, che conosciamo anche bene, sì, perché è stato per anni il produttore dei dischi più famosi di De André, Non al denaro, Non all'amore né al cielo, Storia di un impiegato, quindi dischi celeberrimi. Lui aveva dovuto chiudere la sua etichetta a fine anni 70, aveva fondato questa piccolissima etichetta, la Cristoforo Colombo Records Company, genovese ovviamente, e quindi produce, in questo caso è il produttore di Rick e Gian, cerca di mandarli a Sanremo, anche perché sono gli anni, no? C'era stato Benigni a condurre, sì, l'anno prima, c'era stati i Pandemonium, quelli di Tu fai schifo sempre, che avevamo citato in una vecchia puntata di Zibaldone, quindi provano ad andarci anche loro, invece loro non ce la fanno, ce la farà appunto Salvi qualche anno dopo. Eh sì, e come, insomma, è tante volte ci è andato Salvi, 4 se non sbaglio. Rimaniamo nei primi anni 80 con questo brano, anch'esso ovviamente respinto, che è di Marcella Bella, Nell'aria. Che mi vuoi, la mia voglia è grande e scandalosa ormai. C'è una gatta accanto a me e non rinuncio a lei. Sono un essere che ha Molto 80s, c'era la premiata ditta Mogol Gianni Bella, ossia il fratello di Marcella Belli, era Marcella Bella, era il 1983, Banzo, in più tra l'altro c'era anche un nome importante dell'Italo Disco, Celso Valli, nella produzione. Sì, hai detto tutto tu, e effettivamente credo che la mano di Celso Valli si senta nell'arrangiamento, è un nome storico dell'Italo Disco, quindi effettivamente... il suono è affine a quello stile, e comunque questo è forse il brano più noto di Marcella Bella insieme a Montagne Verdi, che è di 11 anni prima, e il salto e il cambiamento di stile, di attitudine e tutto non potrebbe essere enorme. Più forte. Comunque Montagne Verdi a Sanremo ci andò, e invece nell'aria no, che comunque è un classico esempio di brano scartato a Sanremo che poi diventa famosissimo. Esatto. E in questo caso il veicolo della sua fama fu il Festival Bar, quindi torna Salvetti, non mi aspettavo di menzionare Salvetti così tante volte in questa puntata. E comunque Marcella Bella ha partecipato ben più di una volta a Sanremo, perché ha un totale di 6 partecipazioni. Nel 2004 si era candidata alle europee nelle liste di Alleanza Nazionale, ma ha detto anche che questa cosa l'ha danneggiata artisticamente. Non so se sia vero, non ho elementi per dirlo. Comunque aveva provato anche a proporre brani del fratello Gianni, che aveva dovuto abbandonare la carriera per motivi di salute, cioè scriveva soltanto. Ma è una storia, se vogliamo, Steven, a lieto fine, perché nell'edizione che sta per cominciare Marcella Bella ci sarà con un brano intitolato Pelle Diamante, quindi sarà la sua 7ª partecipazione. Chissà se è un caso se nell'Italia di Meloni, una che è stata candidata 20 anni fa con AN, adesso viene richiamata dopo 20 anni al Festival di Sanremo. Non voglio essere troppo dietrologico, sentiremo il brano. E infattivamente, ascolteremo la prossima settimana. Noi andiamo al 1999, dove un grandissimo cantautore della canzone politica di protesta come Paolo Pietrangeli, dopo aver tentato di entrare a Sanremo, anche lui è stato rifiutato. Caucciù. Prendi una pietra rotonda, prendi un elastico a fionda, la mira con cura, la mano sicura, così colpirà, perforerà. Certo una lastra di vetro, forse una lastra di piombo, metti un elastico al mondo se non scapperà, metti un elastico al mondo se non scapperà. Cerca una grande puttana, trovala, che sia lontana, che sia vicina, alle infamie dei simili, ai vizi degli uomini, alla libertà che non avrà. Pregala come una santa, nessuna chiesa la canta. Metti un elastico al mondo se non scapperà. Metti un elastico al mondo se non scapperà. Fa l'operaio a Milano, il lavoro nobilita l'uomo, la vita piegata, chinate le ore su un solo motore che non partirà, né arriverà. Ti chiede se l'hanno imbrogliato, rispondi che il mondo è cambiato e che la sua spina dorsale gli si spezzerà. Il lavoro nobilita l'uomo che lavoro non ha. Trovami quel militare, sceglie, lo fa di mestiere, sceglie il suo corpo speciale, non vuole tornare civile, è una scelta che dà rispettabilità. Butta quel somalo a terra, brucialo, è un atto di guerra. Guerra perduta in partenza con l'umanità. Se l'uomo è una bestia, che razza di bestia il farà? Cerca pepite nel fiume, l'imprenditore che assume a Singapore 84 ore. In braghe bianche il re delle banche che fa la carità. Cercalo lui che può tutto, trovalo lui che è onnisciente. Vende paesi e la gente che può ricomprare. T'apre le porte d'Europa che può cancellare. Prendi una pietra tagliente, trovami il vecchio sapiente. Lui che ci vede, lui che ci sente. Lui che non mente, che sa la verità. Fagli uno squarcio sul petto, strappagli il cuore dal fondo, spezza l'elastico al mondo, così scapperà. Spezza l'elastico al mondo, così scapperà. spezza l'elastico al mondo, così scapperà. Fausto, dicevamo, questo è un brano del 1999, ma in quell'anno fu pubblicato in un album di Paolo Pietrangeli, no? Che uscì con l'etichetta il Manifesto, Tempo Sensibile si chiamava quel disco. In realtà era stato presentato al Festival 98, dove ci si aspettava un rinnovamento con l'arrivo di Fabio Fazio, però in realtà così non è stato. Sì, Fazio, fra l'altro, si è laureato all'epoca in lettere e filosofia con una tesi sui cantautori e non ha mai nascosto la sua passione per la canzone d'autore. Se ne parlava appunto alla guida del festival, forse in coppia con Baglioni, avevano appena fatto il successo strepitoso di Anima Mia, parliamo di un po' di anni fa, e quindi lui viene contattato, però non si raggiungono gli accordi. Nel frattempo l'etichetta appunto del Manifesto, che all'epoca pubblicava Pietrangeli, aveva presentato il brano, questa Caucciù, però Niente da fare. Fra l'altro, al Manifesto reagiscono facendo un articolo pubblicando il testo del brano e dicendo, lamentando questa mancanza di spazio per le case indipendenti, perché alla fine dice gli spazi sono tot per la Warner, tot per, no, per varie, certo, le major, che poi nel frattempo sono più o meno scomparse, si sono accorpate. Tra l'altro anche un peccato, anche l'etichetta del Manifesto è venuta a mancare, era davvero un'ottima etichetta, soprattutto come proposta di jazz, di musica veramente alternativa. E quindi ovviamente Pietrangeli il brano lo recupera, lo pubblica l'anno dopo ed è un'occasione mancata, perché è puro Pietrangeli, cioè c'è la sua ironia naturalmente tagliente, e in 3 minuti, il brano è veramente molto breve, affronta anche temi d'attualità. Adesso ci ricordiamo meno della cosiddetta missione di pace della Folgore, dei parà della Folgore in Somalia, però all'epoca se ne parlava naturalmente per le violenze che c'erano state, e credo sarebbe stato il primo brano a contenere la parola puttana, scusatemi tanto lo citiamo, in un brano sanremese. Poi ovviamente in tempi più recenti con i Trapper direi che siamo andati direttamente oltre. Nel 2009 invece furono respinti all'Ariston anche gli Avion Travel. Signore mio, dacci un santo, un artista, Padre eterno, che venga la morte oltre la fatica e la sorte, allungare la vista oltre le porte per vedere la luna e pure Marte. Signore mio, dacci un parere per quando ci vogliono interrogare in tempo di pace e di sonno, che ci faccia star bene per continuare in tempo di guerra magari a campare. Se veramente Dio esiste, se sei quello dei giorni tristi oppure quello degli inni alla gioia, fa che sia vita la nostra, ma vita senza la noia. Senza la pena di queste giostre, le mie, le loro, le vostre, per quando ci mettono nelle liste e ci vogliono sparare, poi la mira gli dovete sbagliare. È una femmina che sappia inciarmare per noi, se ci vengono a cercare diteci a chi dobbiamo votare, sta roba dove si deve buttare, fateci fare un poco di male. Se veramente Dio esiste, se sei quello dei giorni tristi oppure quello degli inni alla gioia, fa che sia vita la nostra, ma vita senza la noia. Se veramente Dio esiste, se sei quello dei giorni tristi oppure quello degli inni alla gioia, fa che sia vita la nostra, ma vita senza la noia. Dacci un santo, un artista, Padre eterno, che vinca la morte oltre la fatica e la sorte, allungare la vista oltre le porte per vedere la luna e pure Marte. È un brano bellissimo questa, Fausto, Se veramente Dio esisti, gli Avion Travel. Era una registrazione del 2018, però il brano era stato scartato quasi 10 anni prima. Sì, nel 2009 avevano cercato di tornare a Sanremo dopo la vittoria, che era stata assolutamente sorpresa, del 2000, ti ricorderai, con Sentimento, avevano vinto il festival. Ovviamente fra l'altro con tante polemiche, perché naturalmente in quel caso lì la giuria di qualità aveva sfruttato il meccanismo di voto e quindi aveva dato 10 a Yavon Travel e 0 a quelli che voleva far scendere in classifica, quindi ovviamente dall'epoca la giuria di qualità è stato tolto questo potere, è stata relegata alle serate delle cover, è stato favorito il televoto, che naturalmente è, diciamo, come dire, popolare, fra virgolette, naturalmente porta tanti bei soldini nelle casse della Rai, ecco, per essere più giusti. Ovviamente è un pezzo scritto da Yavon Travel, i membri storici sono Peppe Servillo che ha scritto il testo e la musica è di Fausto Besolella. E ovviamente non esce su disco subito, non viene ammesso anche perché è un dialogo, quindi parlavamo del brano di Luisel poco fa, quella è una preghiera molto classica, questa invece è totalmente anticonvenzionale, c'è questo Dio che se veramente esiste, quindi naturalmente c'è il dubbio fin dal principio. Probabilmente anche per queste caratteristiche del testo non viene ammesso, lo recupera Fiorella Mannoia l'anno dopo, lo lancia come singolo, ha un buon successo e quando finalmente Yavon Travel, fermi da anni per i vari progetti paralleli, lo incideranno, appunto lo incideranno nel loro album Privé nel 2018 e questo album sarà dedicato però appunto a Mesolella perché lui sarà scomparso all'epoca l'anno prima all'età di 64 anni. Eh sì, purtroppo proprio così. Fausto, siamo in chiusura di trasmissione, innanzitutto grazie di essere stato con noi e ci risentiamo alla prossima. Grazie Steven, è sempre un piacere, buona serata a tutti e ci vediamo al prossimo monografico. Assolutamente sì, e noi andiamo avanti, penultima canzone di questo speciale Respinti all'Ariston volume 3, ritroviamo Paolo Benvenu. Anime avanzate, voltate le spalle al puro mondo, l'errore rende liberi, soltanto se liberai la grazia di camminare verso le saline e a piedi nudi non sentire il male, guardare l'orizzonte. Anima avanzate, lasciate che vi accarezzino le ciglia dell'amore e di ricordi che bruciano in petto, e non dimenticate le parole degli occhi, degli ultimi respiri, e cominciate a respirare. E a illudermi di apprendere la verità dagli uomini, e illudermi e difendermi dalle pazzie degli uomini. Anima ascoltate, lasciate le menzogne agli uomini e le poesie alle ombre, come visioni colte con fatica, eliminate la speranza che serve solo a lamentare il limite e comprare i sogni. Anima avanzate, cogliete i fiori ed adornatevi, tingetevi le labbra, così che possa riconoscervi, e sussurrate al vento il vero amore, che i figli possano abbracciare i padri e tornare a vivere e a scegliere e a illudersi di apprendere la verità. Senza vento nell'oceano, senza fine, fine. Chiedono alle stelle di tornare a navigare. Avanzate, ascoltate, Paolo Benvenu, era il 2011 quando uscì questo brano, una canzone che è molto bella. E Banzo, prima di passarti la parola, ricordare solo che 2 settimane fa, 24 gennaio, ho trovato una puntata speciale, un omaggio a Paolo Benvenu che purtroppo ci ha lasciato proprio il 31 dicembre del 2024. Benissimo Steven, lo avevo ricordato io, andate a recuperare la puntata se non l'avete sentita. Perché questo brano è stato scartato? Forse perché era troppo bello per Sanremo? No, sto ironizzando. È stato scartato proprio per una motivazione stupida, perché come dichiarato più avanti dallo stesso Benvenu in un'intervista, sostanzialmente non era abbastanza famoso per partecipare al festival, che pensando ad alcuni nomi che hanno partecipato nelle ultime edizioni, ma non abbiamo tempo. No. E appunto, Benvenu ai tempi degli Scisma, a differenza di altri gruppi indie del periodo, non aveva dimostrato un grande interesse per Sanremo. Possiamo immaginare che forse un momento di cambiamento sia stato la partecipazione degli After Hours nel 2009 con la canzone Il Paese Reale, che poi diede il là a un tour e una compilation di inediti con altri 18 artisti, fra i quali Benvenu, appunto per promuovere un'idea diversa di musica italiana. Quindi forse gli è venuta lì l'idea, non lo sappiamo. E comunque questo brano purtroppo non ce l'ha fatta, e diciamo che Benvenu, per ricevere un riconoscimento a Sanremo, ha dovuto aspettare il 2024 con la targa Tenco. E insomma, non devo dire a te che è un premio che si svolge a Sanremo, come per il migliore album, è inutile parlare d'amore, quindi non il festival, ma il Tenco almeno gli ha dato il giusto riconoscimento. Eh sì, Herman era il disco del 2011 in cui poi è stata inclusa Avanzate. Ascoltate, Banzo, siamo proprio alla fine, chiudiamo con un respinto all'Ariston del 2023, il La Cruz con Mangia, Dormi, Lavora, Ripeti. Sì, ecco, i La Cruz poi avevano partecipato a Sanremo nel 2011 col brano Io Confesso, ma diciamo che a quell'epoca Mario Ermanno Giovanardi, il cantante, fu praticamente costretto a riformare il gruppo perché da solo non aveva abbastanza peso specifico. Ma nel 2023 i La Cruz con Cesare Malfatti erano veramente riformati. Il brano poi non ce l'ha fatta, se no non ve lo staremmo proponendo qui. E siccome è anche una canzone molto recente, si può fare il confronto con brani che sì, sono stati ammessi nelle ultime edizioni, e chiedersi ma come mai. E questo brano è composto in tempi di lockdown e si sente, parla della vita come lavoro e null'altro, che è un'esperienza che credo che abbiamo vissuto tutti in quel periodo, ed è comparso sull'album Proteggimi da ciò che voglio. E con questa canzone vi salutiamo, vi auguriamo un buon fine settimana e ovviamente vi invitiamo a risintonizzarvi la prossima settimana, venerdì dalle 17 alle 18 per una nuova puntata di Zibaldone. Ovviamente vi invitiamo anche a seguire Sanremo, perché poi insomma magari potremmo dibattere e anche capire come mai canzoni di grande qualità sono state rifiutate in questi anni, e scopriremo anche se è il caso per questo 2025. Termina qui il terzo speciale Respinti all'Ariston, niente di più niente di meno, forse sì quello che era solito dire il primo sindaco socialista di Madrid Enrique Tierno Galván, che tutti i venerdì alle 17.57 diceva: comunque fateci caso, ma su 11 brani che abbiamo proposto, 4 contengono degli imperativi nel titolo. È una cosa curiosa. Ciao Banzo, loro sono i La Cruz, Mangia, Dormi, dormi, lavora e ripeti, il tempo del lockdown. Dentro una ruota di 4 pareti come criceti, mangia, dormi, lavora, ripeti e poi crepi. Dentro l'inferno di un flusso di dati e di reti, mangia, dormi, lavora, ripeti. Si sta rintanati fuori santi ma dentro dannati, blindati. Mangia, dormi, lavora, ripeti, rifiati. E tieni a bada i tuoi vecchi segreti, spietati. Dimmi la verità. Ma tu come fai? Non dico l'amore. Ma tu come fai a non crollare? Alzi e combatti, come di notte nei buchi gli insetti, gli specchi svelano tutto il tuo mondo negli occhi già vecchi. Mangia, dormi, lavora, ripeti, ripeto, e dimmi la verità. Ma tu come fai? Non dico l'amore. Ma tu non ti stupire se sei devastato, se sposti il tuo limite sempre più in là. Se un vuoto dentro ti toglie anche il fiato, la vita normale è un passo più in qua. Ma tu come fai? Non dico l'amore. Bye.